Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi riusciamo a raccontare qualcosa di un po' più confortante, speriamo, per quello che riguarda la borsa. Speriamo di archiviare rapidamente quello che abbiamo visto ieri sui mercati finanziari internazionali. Lo abbiamo raccontato fino all'ossessione nelle ultime ore, il no della Camera americana al piano di salvataggio predisposto dall'amministrazione Bush da 700 miliardi di dollari ha avuto su Wall Street ieri sera un effetto più devastante che gli attentati dell'11 settembre del 2001. Gli indici americani, lo abbiamo detto stamattina, ieri sera, hanno chiuso la seduta segnando il maggior calo giornaliero dal 1987, hanno mandato in fumo 1.100 miliardi di dollari. Al calo degli indici americani ovviamente hanno dato la loro risposta anche gli indici asiatici questa mattina. Shanghai per fortuna è chiusa per festività, se no avremmo sentito le ripercussioni anche sugli indici appunto cinesi. Il Nikkei è chiuso con un ribasso del 4%. L'Europa aveva già avuto il sentore di quello che sarebbe accaduto e ieri ha chiuso bruciando 320 miliardi di capitalizzazione con cali intorno al 5% sulle piazze principali. Oggi si tenta il recupero, che ancora fallisce su alcuni indici, ma in ogni caso ci si tenta di aggrappare un po' a tutto stamattina per almeno far rimbalzare i titoli che non sono oggetto della bufera attualmente, cioè i titoli del settore finanziario e bancario. Londra sta guadagnando lo 0,4%, Parigi più 0,12% nella bufera ormai a questo punto preannunciata ieri, oggi ufficiale per Dexia, ne parlavamo anche nel giornale radio. Francoforte meno 0,86%, la piazza che fa un po' più fatica stamattina a recuperare terreno, e Milano a metà strada, sta ancora perdendo ma il calo è dello 0,2% sull'S&P MIB, è in ribasso dello 0,05%, quindi una situazione di miglioramento, perché in avvio il risveglio per le borse europee era stato più brusco, si registravano appunto ribassi fra il 2 e il 2 punti e mezzo. Tra l'altro l'andamento delle borse europee questa mattina era anche condizionato da una serie di indiscrezioni che stanno cominciando a circolare su una possibilità che le banche centrali mettano in piedi un'azione congiunta per un taglio dei tassi di interesse, e vedremo tra l'altro anche se questa potrebbe essere un'azione che potrebbe servire a ridare un po' di sollievo al settore bancario, che ormai in forte crisi di liquidità ovunque, e questo aspetto si risente anche sui tassi di interbancari che stanno continuando a lievitare. In ogni caso da Wall Street abbiamo qualche indicazione positiva, perché i futures sui principali indicatori stanno rimbalzando poca cosa rispetto ai cali di ieri, un punto e mezzo, due punti, però almeno qualche tentativo c'è. Oggi tra l'altro il presidente degli Stati Uniti Bush farà una nuova dichiarazione alle 7:45 ore locali, quindi prima dell'apertura di Wall Street, 14:45 ora italiana, sulla risposta dell'amministrazione alla crisi dei mercati finanziari. C'è la riunione in Francia, a Parigi appunto all'Eliseo, per il mondo della finanza francese convocato dal presidente Sarkozy. E ovviamente anche in Italia ci si muove, sta riunendosi a Roma il Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria presieduto dal Ministero dell'Economia, dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Insomma, tutta una situazione che è più che mai confusa, sulla quale anche oggi torniamo a fare il punto con degli ospiti naturalmente. Allora, questa mattina abbiamo convocato e interpellato intanto Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore, inviato spesso e volentieri a Washington per il quotidiano, già corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore. In queste ultime ore ha seguito la risposta delle autorità europee a questa crisi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Sentiremo poi Stefano Rossi, che ci terrà compagnia per tutta la puntata di Salva Danaio, amministratore delegato di Edmond Rothschild SGR. Rossi, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. E nella prima parte di Salva Danaio ci farà compagnia anche Antonio Tognoli, responsabile della ricerca azionaria di Abax Bank, che ci aiuterà a fare un punto un po' più accurato su Piazza Affari, dove in questo momento le attenzioni degli operatori si concentrano soprattutto su Unicredito che ieri ha lasciato sul campo il 10%, anche stamattina in avvio di seduta il calo era di nuovo dirompente, il titolo di Piazza Corduzio perdeva 10 punti percentuali, adesso sta risalendo la china, il calo è del 4%, ma evidentemente la grande esposizione internazionale di Unicredit, i grandi progetti di espansione seguiti in passato, adesso purtroppo pesano come un macigno appunto sulle quotazioni. Intanto un'occhiata anche a Piazza Affari, invece sui titoli che stanno rimbalzando più vistosamente, almeno insomma vi diamo anche qualche buona notizia: Tenaris più 5,63%, Impregilo più 5,38%, la Banca Popolare di Milano più 4,22%, Mediaset più 3,37%, Pirelli più 2,98%, Autogrill più 2,90%, più 2,8% per UbiBanca, Buzzi Unice, MSTM più 2,68%, rialzo di 2,5 punti anche per Italcementi ed Unipol. C'è davvero tra tutti i temi che dovremmo spiegare, commentare e raccontare solo l'imbarazzo della scelta. Vedo che a Londra, tra l'altro, in una giornata in cui i titoli bancari sono ancora, dicevamo, nell'occhio del ciclone, qualcuno rimbalza vistosamente, altri invece sono ancora in calo. A Londra, per esempio, HBOS è a picco, sta perdendo qualcosa come il 10%, adesso perdeva il 17% fino a poco fa, ma insomma è ancora un fuggi dai titoli del settore bancario e finanziario. Cominciamo però per ordine. Alessandro Merli, ieri ad Amsterdam, allora la riunione del Financial Stability Forum presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, Draghi che oggi invece è a Roma per la riunione del Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria del nostro paese, quindi insomma due ovviamente facce della stessa persona. Qual è stata ieri la sensazione che è emersa in questo summit organizzato ad Amsterdam? Qual è lo stato di allerta delle istituzioni europee in questo momento? Lo stato di allerta evidentemente è massimo. La riunione di Amsterdam era già convocata da tempo perché qualche mese fa, quando la crisi era acuta ma non allo stato di panico nel quale ci troviamo oggi, il G7 aveva dato mandato al Financial Stability Forum di trovare o di individuare delle misure, delle raccomandazioni su cosa si potesse fare per rendere più solido il sistema finanziario internazionale, ed è su questo che il Financial Stability Forum sta lavorando già da diversi mesi e su quale questi temi presenterà il suo rapporto fra 10 giorni a Washington alla prossima riunione del G7. Però evidentemente la riunione è stata in un certo senso depistata, se vogliamo, dall'attualità. Non dimentichiamo che nella sola giornata di ieri 5 banche fra gli Stati Uniti e l'Europa hanno bisogno di o di un salvataggio pubblico o di una nazionalizzazione per restare a galla. Oggi si è aggiunta Dexia, poi se vogliamo dire che anche le banche irlandesi, in grave difficoltà per lo scoppio della bolla immobiliare in Irlanda, hanno richiesto un intervento del governo, che ha detto che garantirà depositi e debiti di 6 grandi banche irlandesi. Quindi siamo in una situazione molto difficile. Le autorità hanno detto: siamo pronti a tutto, abbiamo iniettato liquidità sui mercati in una maniera senza precedenti, ha ricordato Draghi. Per la verità questo finora non è riuscito a scongelare l'interbancario, perché nessuno si fida di nessuno e quindi tutta questa liquidità che viene immessa dalle banche centrali, poi le banche la trattengono presso di sé, timorose dei propri conti e di quello dei propri delle proprie controparti. Cosa potrebbero fare le autorità? Si è parlato di una possibilità di un taglio dei tassi concertato fra le grandi banche centrali, anche se non è chiaro come ridurre di un po' il costo del denaro possa risolvere questa situazione di panico, oppure di un'azione complessiva come è stata tentata negli Stati Uniti ed è stata bocciata almeno per il momento dal Congresso. E purtroppo qui l'Europa è un po' si trova un po' sguarnita, nel senso che le autorità sono frammentate, naturalmente si dipende dalle autorità nazionali, non c'è un organo europeo. Che cosa succede se in effetti si trova in difficoltà una banca che ha interessi transnazionali? Abbiamo visto che su Fortis, che agiva nel Benelux, sono intervenute le 3 banche centrali di Belgio, Olanda e Lussemburgo, ma se una delle grandi banche europee che agiscono su tutto il mercato europeo dovesse avere delle serie difficoltà, a chi spetterebbe intervenire? Quindi questo è un po' il grande interrogativo che riguarda l'Europa in questo momento. Ecco Alessandro, tu ci hai fatto, mi hai aiutato appunto a fare il riepilogo anche dei casi più eclatanti che si sono manifestati ieri, il salvataggio da parte dei governi del Benelux di Fortis, abbiamo avuto anche l'altra nazionalizzazione di Bradford & Bingley nel Regno Unito, in Gran Bretagna, la situazione di Dexia, che è una banca che peraltro anche nel nostro paese è la principale emittente e la banca che struttura anche i titoli delle obbligazionari degli enti locali, quindi titoli con i quali appunto poi gli enti locali del nostro paese si mettono sul mercato per finanziare la propria attività. La domanda che ti faccio, ti chiedo se anche questa percezione è passata ieri ad Amsterdam. Qualche giorno fa un autorevole esponente del Fondo Monetario Internazionale ha detto che non solo in Europa ancora non si era visto neanche un principio di crisi finanziaria, ma che addirittura le banche europee avrebbero dovuto sopportare conseguenze ben più pesanti rispetto a quelle che stanno sopportando i santuari della finanza americani. Ecco, c'è questa sensazione secondo te al Financial Stability Forum? Ma io credo che fosse impensabile che l'Europa passasse totalmente indenne dalla bufera che sta succedendo negli Stati Uniti, proprio perché la finanza globale oggi è estremamente interconnessa. E non dimentichiamo che in tutti i crack che ci sono stati nei passati 20 anni c'è sempre stata di mezzo qualche banca europea, cioè quando qualcosa va storto nel mondo c'è qualche banca europea che ci va di mezzo. Le ragioni sono diverse, uno dei grandi indiziati sono sempre le banche pubbliche o semipubbliche tedesche, dove la gestione diciamo così è un po' allegra o forse un po' troppo politica, e comunque era impensabile che l'Europa rimanesse fuori da questa bufera. Per questo si potrebbe dire, se non fosse che ci andiamo di mezzo tutti, che sta ben fatta ai politici europei che nei giorni scorsi, quando fallivano o venivano salvate per il rotto della cuffia le banche americane, dicevano beh, questo è un problema del sistema americano, è una cosa che non può succedere da noi. In un certo senso adesso hanno cioè, il sistema un po' si è vendicato, perché in fondo le banche europee erano tanto coinvolte in quello che succedeva di quelle americane. L'altra osservazione che si sente fare da vari politici che trovo sia abbastanza fuori luogo è quella secondo cui l'Italia verrebbe colpita meno di altri paesi perché siamo, fra virgolette, un paese manifatturiero. In realtà sì, in Italia il peso della industria manifatturiera è di 2-3 punti percentuale più alto, 4 punti percentuale più alto della media europea, però di fatto ormai anche il nostro paese è un paese... Diciamo che la manifattura per andare avanti ha anche bisogno del sostegno finanziario, di chiedere prestiti alle banche, quindi se la banca... Evidentemente non siamo più in un sistema proto-industriale, ma siamo in un sistema dove senza un sistema bancario efficiente anche le industrie sono destinate a soffrire. Per cui un po' azzardate, ecco, queste dichiarazioni dei politici. Le autorità stanno vedendo come si possono muovere, tenendo conto che dal punto di vista istituzionale in Europa non c'è un organismo come il Tesoro americano, come la Federal Reserve, che può prendere le decisioni per tutti, e stiamo vedendo come anche negli Stati Uniti pure il Tesoro americano e la Federal Reserve hanno le loro difficoltà a far passare delle soluzioni buone o cattive che siano. Alessandro, un'ultima battuta, poi ti saluto e continuo la nostra trasmissione con i nostri altri due ospiti. Tu hai la sensazione che il piano americano possa passare, visto che siamo tutti praticamente appesi a quello? C'è uno zoccolo duro di resistenza molto forte da parte dei repubblicani, diciamo più attaccati all'ideale o all'ideologia che in nessun modo si debba avere un intervento dello Stato nell'economia, nemmeno in una situazione di emergenza come questa. E secondo me non è stato spiegato bene a questi deputati che, come accennavi prima, difficilmente poi il resto dell'economia può reggersi se il sistema bancario va a catafascio. L'altro problema che c'è è che c'è un presidente in carica che è a un mese dalle elezioni e a due mesi dalla scadenza del suo mandato, evidentemente ha pochissimo potere di convinzione nei confronti della base del suo stesso partito, però è ovvio che qualche soluzione magari emendata rispetto a quella presentata quella che ieri ha avuto lo stop, diciamo. Ecco, quella presentata in prima battuta dovrà essere trovata, secondo me, se non con il rischio di andare in coda al prezzo, diciamo, di veramente una catastrofe che in questo momento non si riesce neanche a immaginare. Grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Prima di sentire Stefano Rossi ed Antonio Tognoli, sentirei una domanda di un ascoltatore che è Roberto da Torino. Roberto, buongiorno, poi sentirò subito Tognoli perché poi anche lui deve lasciarci alle 12.30 per fare un po' il punto su Piazza Affari. Roberto, benvenuto, 800 24 00 24 per le vostre domande, le vostre considerazioni su questa situazione finanziaria. Eccoci Roberto, a lei. Sì, buongiorno, sono Roberto da Torino. Volevo fare una mia considerazione sul momento attuale che stiamo vivendo sulla borsa mondiale. Mi sembra un po' di rivedere quello che mi era successo. Io sono entrato in borsa nel 99 senza saper nulla. Penso che qualsiasi cosa che compravo andava su. Quello è successo fino al 2000-2001. Non so, penso di averlo anche fatto per 5 il mio capitale. A un certo punto, quando la borsa scendeva, nella mia esperienza, dicevo, ma come, questo titolo valeva 100, adesso vale 90, ma aspettiamo. Comunque da 100 molti sono andati anche a 1,5. Il mio dito, cioè punterei il dito su quelle persone che comunque anche in questa situazione dicevano che la crisi dei mutui non colpiva l'Europa perché era una crisi americana. Anche la New Economy, mi ricordo che dicevano che è una cosa americana perché lì c'era da più tempo, mentre in Italia era appena scoppiata la bolla e quindi non aveva ancora quei multipli che aveva raggiunto in America. Quindi secondo me la storia non ha insegnato molto. Poi un'altra considerazione che faccio. Molto rapido Roberto, così diamo spazio anche ad altri. Una considerazione che faccio è questa, che può anche essere un salvataggio il piano Bush, però non sappiamo ancora se si entra in recessione oppure no. Quindi consigliare a dei poveri clienti di comprare azioni mi sembra sbagliato. Solo questo. Grazie molte Roberto. Giro le sue riflessioni ad Antonio Tognoli. So che la sua attenzione è particolarmente focalizzata su Piazza Affari, però mi sembrano delle considerazioni che comunque possono essere tranquillamente commentate. Davvero la storia, come dice Roberto, non insegna niente. Comunque lui ha fatto il paragone con una crisi, quella dello scoppio della bolla high tech, che aveva una natura estremamente diversa rispetto a quella attuale. Tognoli. Sì, infatti era completamente diversa, nel senso che ovviamente considerazioni sono corrette, ma occorre tener conto della completa diversità sia del mondo. Sono passati 8 anni, ma 8 anni in tema finanziario sono 800, ma soprattutto della crisi completamente diversa. Lì era una crisi di una parte del mondo, voglio dire la bolla internet, qui è una crisi che si innesta sull'economia globale, partita dalla finanza, ma evidentemente una crisi finanziaria che non tocchi l'economia reale non si è mai vista, infatti si sta vedendo anche in questo momento, ma soprattutto è globale, cioè non c'è una parte grossa del mondo che possa trainare l'altra, quindi è proprio questo il rischio, che ci sia un problema di liquidità mondiale, ed è questo il motivo per il quale tutte le banche centrali si sono accordate per iniettare fortissima liquidità. Cito il dato del 29 settembre, Fed di concerto con le altre banche centrali praticamente hanno servito dollari fino a 620 miliardi, oltre ai 700 che intendono mettere sul piatto, quindi questo ci dà una misura di quanto sia mondiale e profonda la crisi che stiamo vivendo. Il punto fondamentale è che non sappiamo, appunto perché non è mai stata sperimentata in passato, visto che l'economia non era così globale, dicevo, non sappiamo quanto questa possa essere profonda e quanto possa essere la sua durata. Per cui ci si sta veramente muovendo tentando di limitare fortemente i danni. Tognoli, andiamo a Piazza Affari, le concedo due minuti di tempo per commentare un po' la situazione di Milano, che ieri ha replicato esattamente la situazione degli altri indici, con delle storie che però hanno generato anche un po' di preoccupazione aggiuntiva. Unicredito ieri meno 10%, anche oggi è partita malissimo, adesso il calo è del 3,78%, stamattina l'amministratore delegato Alessandro Profumo ha addirittura inviato una lettera per tranquillizzare insomma tutti i dipendenti. Lei cosa pensa della situazione delle banche italiane? Visto che tra l'altro c'è anche un'ascoltatrice di Livorno, la faccio intervenire dopo, Carla, che credo voglia chiedere anche commento su questo. Certo, sul tema in particolare, ovviamente non possiamo esprimerci sul tema in particolare, a livello di sistema bancario italiano sicuramente è difficile che non venga toccato e non sia stato toccato, e questo è ovvio. Il punto è quanto. Io credo che il controllo della Banca d'Italia sia stato veramente molto forte e fatto in modo molto, molto puntuale, per cui il bloccare patrimonio a fronte di certi rischi di fatto ha fatto sì che alcune banche non prendevano in carico titoli o comunque derivati molto molto rischiosi. Questo di fatto ha messo a riparo le banche italiane che tra l'altro hanno un sistema particolare, non sono investment bank pure, ma sono banche commerciali che fanno anche investment banking, ha messo a riparo il sistema bancario italiano dallo scoppio di particolari problemi. È vero, saranno toccate, ma non credo in una misura così forte come abbiamo visto negli altri paesi. Insomma, la loro proverbiale prudenza in questo momento è l'ancora di salvataggio per quello che riguarda Unicredito. In 10 secondi, Tognoli paga anche la sua politica di espansione all'est molto aggressiva degli ultimi anni? Beh, probabilmente sì, di fatto però occorre poi effettivamente fare i conti e vedere quanto rispetto all'utile complessivo si possa avere di perdita. Io sostanzialmente non credo sia che vada a incidere in modo così significativo come il mercato sta facendo intravedere. Vedremo cosa ci racconteranno le prossime trimestrali. Stiamo continuando a monitorare, lo abbiamo fatto ieri e presumibilmente lo faremo fino alla puntata di venerdì, la situazione che sta maturando in questi giorni sui mercati, una situazione che è stata per certi versi anche drammatica ieri a causa del no da parte del Congresso americano al piano di sostegno al sistema bancario statunitense predisposto dall'amministrazione Bush, e poi tutta una serie di cattive notizie che hanno riguardato l'Europa, la nazionalizzazione di alcuni istituti di credito. Insomma, un quadro che è molto preoccupante per certi versi, ma insomma cerchiamo anche di capire qual è il punto minimo che si può raggiungere, se è stato già raggiunto e come si può ripartire. Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond & Rothschild SGR, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno. L'ho lasciata lì a sedimentare per ascoltare anche insomma le altre considerazioni e cercare anche di organizzare un contraddittorio se è possibile, per capire se è d'accordo con le riflessioni espresse fino a questo momento. Intanto gli ascoltatori che si chiedono, ma insomma la recessione americana ci sarà o no? Con un prodotto interno lordo che mi pare nel secondo trimestre sia attestato al 2,8%, credo che intanto i numeri non possano indicare questo, però con il mancato sostegno finanziario che adesso l'economia deve ammettere di avere, in sostanza, può andare verso questo scenario? Lei come la vede? Ma dunque, secondo noi sicuramente ci sarà un rallentamento economico negli Stati Uniti. Io mi permetto di ricordare solo un dato che in questi giorni abbiamo esaminato e che è abbastanza importante, cioè su ogni dollaro di GDP americano che viene prodotto ce ne sono 4 di credito, quindi l'economia americana si regge moltissimo sulla fiducia in qualche modo reciproca, quindi per concedere credito. Chi è stato in America sa bene che quando uno studente inizia l'università molto spesso si accolla un debito per pagarsi gli studi, perché è sicuro e certo, quindi questa banca gli dà fiducia, che poi dopo troverà un lavoro e potrà ripagarsi questo debito. E anche il mercato del lavoro è estremamente flessibile, per cui si rimane. Ecco. Gli Stati Uniti sono un paese che si risollevano dalle crisi, nel senso che un'azienda, una persona che fallisce in qualche modo ha una seconda chance di poter ricominciare la propria vita. Quindi io dico che questo è un momento sicuramente di grande crisi, è una crisi che si è manifestata con delle caratteristiche estremamente diverse rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, altre volte, però da questa crisi sicuramente gli Stati Uniti si risolleveranno e dall'altra parte, mi così collego a quello che è stato detto, è impensabile che una crisi finanziaria così forte che parte degli Stati Uniti non abbia gli impatti che stiamo vedendo in questi giorni in qualche modo sulla struttura del credito, non soltanto in Europa ma nel resto del mondo. Quanto c'è di salutare rispetto alla reazione di borsa alle difficoltà delle banche rossi, quanto c'è invece di esasperato, esagerato? Dunque, c'è sicuramente una componente di panico in questi giorni, perché è stato quello che ha gettato un po' alle ortiche anche quello che era stato fatto in termini di riduzione della leva, è stato il fallimento di Lehman Brothers, perché quello ha poi generato grandi paure sul business model delle investment banks. E questo voglio dire, le investment banks si finanziano a breve termine sui mercati con l'emissione di obbligazioni e quindi se non c'è in quel momento fiducia alcuna, queste obbligazioni non le compra nessuno e quindi il business model non può funzionare. Da quel momento lì è venuto diciamo un panico generalizzato che si sta allargando e che in questo momento qua sta colpendo in Europa delle banche che sono un po' miste, non sono delle vere banche diciamo come quelle italiane che sono state anche nominate, cioè in Italia le banche sono ricche di depositi, hanno un capitale proprio forte, hanno un controllo da parte della Banca d'Italia preciso e quindi prima che qualsiasi cosa succeda c'è la moral suasion e ci sono poi anche gli obblighi di far fronte con eventualmente aumenti di capitale, cosa che in questo momento qua le banche italiane per adesso non hanno bisogno di fare perché il Tier 1 Capital è piuttosto sotto controllo. Allora, proprio visto che siamo entrate nel merito, per la verità tutta la puntata poi è imperniata intorno a questo discorso, lo stato di salute delle banche che ovviamente genera poi il panico citato da Rossi e le varie discese dei listini azionari, allora farei due considerazioni diverse con due ascoltatori pronti ad intervenire all'800240024. Cominciamo con Giuseppe da Udine, benvenuto. Buongiorno, mi sentite? La sentiamo benissimo, Giuseppe, in viaggio, al lavoro? Io sono un promotore finanziario di 48 anni. Che cosa le stanno dicendo? Giuseppe? Devo confessare tutto il mio disgusto per quello che sta succedendo. Giuseppe, si fermi, Giuseppe. Senta, sì, noi la sentiamo, io però l'ho bloccata perché mi piacerebbe, a parte farle fare ovviamente la sua considerazione, per prima cosa cercare di capire cosa le stanno chiedendo i suoi clienti in questo momento. C'è paura, c'è panico, sta... I clienti sono preoccupati, è falso dire che i clienti stiano tranquilli perché io li faccio star tranquilli, non è vero niente. Non c'è panico derivante da una eccessiva esposizione azionaria in quanto quella è stata controllata. Il panico nasce dal fatto che il sistema si fondava da sempre, dal Medioevo in poi, sulla... Peccato, abbiamo perso Giuseppe, vediamo di recuperarlo allora, perché mi sembravano insomma delle riflessioni interessanti, almeno a vederle nei contenuti, appunto con le anticipazioni che le ragazze del centralino mi scrivono sul display. Carla dalla provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dunque, il mio problema è un problema piuttosto pratico, molto semplice. Ho in scadenza dei pronti controtermine che pensavo di rinnovare con altri pronti controtermine. Sì. Che sicurezze danno le banche con la situazione attuale? Cioè, mi conviene? È meglio che aspetti? C'è qualche altra possibilità? Che mi dite? Carla, se lo sapessimo non staremmo qua, staremmo tutti a gestire in maniera molto attenta, privata, il nostro portafoglio. Detto questo, senza ovviamente mancare di rispetto alla sua domanda, che mi pare assolutamente pertinente. Stefano Rossi, insomma, c'è chi in questo momento per difendere il proprio portafoglio naturalmente si colloca su prodotti estremamente liquidi. Credo che il pronto controtermine sia la massima rappresentazione. Beh sì, allora i pronti controtermine non sono altro che un contratto in cui la banca fondamentalmente compra dei titoli e li porta a scadenza. E io l'unica cosa che chiederei, se fossi nei piedi dell'ascoltatrice, è chiedere alla propria banca su quali titoli vengono fatti i pronti termine. Se i titoli sottostanti, quindi sono titoli di Stato, direi non c'è problema. A proposito dei titoli di Stato, leggevo stamattina molte analisi, ovviamente le pagine dei giornali di quest'oggi sono piene di commenti sulla situazione e anche di indicazioni anche su quello che si può fare in questo momento per proteggere al massimo il proprio investimento, a meno che non si abbia un atteggiamento molto aggressivo e speculativo e ci si collochi ovviamente sul mercato azionario in attesa che questo rimbalzi e quindi si prenda profitto magari con del trading giornaliero dalle situazioni appunto che maturano di giorno in giorno. C'è questo atteggiamento che viene definito di flight to quality, quindi di proprio volo verso la qualità. In questo momento sembra che ovviamente l'atteggiamento generale sia quello di posizionarsi proprio sui titoli governativi, sui titoli di Stato. Ecco, un atteggiamento giusto, Rossi, secondo lei? Anche questo è un atteggiamento tipico dei momenti di panico, cioè in America subito dopo il fallimento di Lehman Brothers la fuga verso i titoli di Stato ha fatto sì che il rendimento dei titoli di Stato per la prima volta andasse a zero, cioè stiamo parlando di situazioni estreme, cioè in questo momento qua pur di salvaguardare in qualche modo gli assets in qualche maniera, perché poi il sistema non è vero che non è liquido, il sistema è molto liquido, è troppo liquido, però non c'è fiducia in questo momento qua per far sì che le banche, come diceva giustamente il suo collega all'inizio, le banche si facciano mercato una con l'altra, quindi chi ha la liquidità la tiene, perché la prima cosa da salvaguardare è ovviamente, se sono banche, i depositi dei propri clienti e la propria solidità patrimoniale. Quelle banche che sono più, diciamo, più piccole o con dei business model invece che non hanno depositi e che devono andare sul mercato a cercare questa liquidità, cosa che è successa nella normalità delle loro attività in precedenza, queste banche hanno difficoltà a trovarla questa liquidità perché nessuno gliela dà, ma le altre banche invece ce l'hanno questa liquidità. Ecco, se la tengono cara, se però la tengono cara e quindi se la tengono stretta, e quindi i tassi interbancari sono saliti a livelli estremi, molto alti. E allora, per tornare alle domande, la Banca Centrale Europea sicuramente starà pensando, io immagino, un taglio dei tassi che sicuramente può aiutare in qualche modo tutta la situazione, però qui stiamo parlando di riduzione della leva, riduzione quindi della leva finanziaria da parte di tutti gli istituti che l'hanno avuta troppo alta per troppo tempo, tutti allo stesso momento, ed è chiaro che ci vuole del tempo per assorbire questa vendita di assets. Allo stesso modo quelle banche che saranno in grado di ripatrimonializzarsi andranno avanti a fare il loro mestiere in futuro, e qui diciamo aggiungo una cosa che è una mia sensazione: in futuro alcune di queste banche faranno molto meno soldi in futuro perché appunto non hanno più la possibilità di utilizzare la leva, quindi il ritorno sul capitale proprio sarà ritornato a livelli più normali. Abbiamo ripristinato il collegamento con Giuseppe da Udine. Giuseppe, eccoci. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe altro, ci dica. Stavo dicendo, il problema nasce dal fatto che si è riusciti in 10 anni a far cadere la fiducia che c'era nel sistema bancario dai tempi del Medioevo. Il fondamento dell'economia è che ci deve essere un intermediario che intermedia fra chi ha i soldi e chi non li ha da sempre, altrimenti le aziende non potranno approvvigionarsi e chi ha i risparmi non li potrà utilizzare. Bene, tutto questo funzionava fino a che c'era un qualcuno di cui ci si fidava, quel pezzo di carta che mi dava un deposito, un titolo, un qualcosa, era valido indipendentemente da. Negli ultimi 10 anni, sul falò delle vanità, c'era un bell'articolo oggi su un giornale, per la politica dei ROE al 24-25%, si è fatto una serie di disastri, i cui attori sono chiaramente i gestori, i direttori, i manager delle banche, ma il cui diretto responsabile sono stati i servizi di controllo che non hanno funzionato, la Fed in giro, la SEC. Le stesse agenzie di rating, insomma, certo Giuseppe, sono un po' tutti assolutamente sotto esame in questo momento in maniera abbastanza evidente. Io la ringrazio per la sua considerazione. Dopo i cali fortissimi registrati ieri, oggi abbiamo una situazione mista in Europa e la peggior piazza continua ad essere Francoforte, adesso in calo dello 0,8%. Andiamo proprio a Francoforte con il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano, che saluto. Beda, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, si taglia o non si taglia? Pare, o almeno, non so se questo è semplicemente un auspicio da parte di molti operatori di mercato, circola voce che le banche centrali, non solo quella europea, ma anche anche quella inglese, quelle dei paesi del nord Europa e la Banca Nazionale Svizzera stiano concordando l'intervento d'urgenza che potrebbe maturare addirittura nei prossimi giorni, leggo però soprattutto se anche la Banca Centrale Americana sarà disposta a farlo. Insomma, ha interpellato qualcuno a Francoforte? Ha avuto modo di capire se questo orientamento è concreto o meno? Ma dalle ultime indicazioni che provengono dalla Banca Centrale Europea, anche interviste pubblicate in Italia, l'impressione è che un taglio a brevissimo termine, ossia giovedì, quando vi è la prossima riunione del Consiglio Direttivo, sia improbabile in questo momento. È difficile da immaginare. Il ragionamento della BCE credo che sia doppio fondamentalmente. Prima di tutto continua a pensare che vi sono pressioni inflazionistiche. È vero naturalmente che la crisi finanziaria provocherà un rallentamento economico, non c'è dubbio, ma assistiamo in vari paesi europei a delle pressioni inflazionistiche e a degli aumenti salariali elevati che naturalmente preoccupano le banche centrali. E credo, secondo aspetto, che un ribasso del costo del denaro in questo momento non avrebbe un effetto travolgente sul mercato monetario. Abbiamo visto naturalmente i tassi aumentare, ma credo che i banchieri centrali siano convinti che una riduzione del costo del denaro ufficiale avrebbe un effetto tutto sommato limitato sui tassi di interesse interbancari, che sono in tensione e sono aumentati per un motivo semplice: le banche non si fidano l'una dell'altra, temono che le loro controparti abbiano in portafoglio obbligazioni cartolarizzate di cattiva qualità, temono l'insolvenza delle banche, e il ragionamento delle banche centrali in questo momento è: un costo del denaro più basso non risolverebbe il problema della fiducia. Allora, naturalmente la situazione evolve rapidamente e l'Europa la settimana scorsa si diceva convinta che non vi sarebbero stati problemi bancari nella zona euro, poi improvvisamente nel giro di 2-3 giorni due banche della zona euro sono state salvate e credo che una terza sia sul punto di essere salvata in Francia. E tra l'altro domenica eravamo tutti sicuri che il piano Bush passasse al Congresso, pur emendato, pur con qualche correzione, e invece ieri ha avuto il fragoroso stop. Vedremo se potrà essere rimesso in discussione nelle prossime ore. Grazie a Beda Romano. Continuo invece la mia chiacchierata, anche se abbiamo ancora pochi minuti di tempo, con Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond Rothschild SGR, però sentendo anche prima Giulio da Taranto. Buongiorno Giulio, rapidissimo, così diamo spazio anche ad un altro suo collega da Varese. Ok, buongiorno, rapidissimamente. Volevo chiedere agli esperti di studio, questi interventi concertati con l'emissione di liquidità da parte delle banche centrali non sono altro che alimentazione per quanto riguarda la speculazione? Cioè, voglio dire, nel 92 il governo italiano fece l'operazione per riportare la lira su, se ricordate, il governo Amato bruciò un sacco di miliardi per niente, perché dall'altra parte c'era Soros che con i derivati faceva quello che voleva. Allora, adesso il mercato si è molto più evoluto, anche per fiuggire i derivati e quant'altro. Non credete che forse sia giusta la politica, diciamo, di non fare questo tipo di interventi da parte dei repubblicani americani, proprio per non alimentare una speculazione che ormai raggiunge tutti i livelli? L'abbiamo visto anche col discorso del petrolio, che è cosa è successo ultimamente. Infatti. Grazie. Grazie a lei Giulio. Stefano Rossi, le giro il commento di Giulio Dantaranto, ma gliela giro anche in un'altra maniera. Sì, magari tutte queste iniezioni di liquidità potrebbe far venire la voglia a qualcuno di utilizzare questi fondi per poter continuare a speculare, ma credo che la voglia di speculare in questa fase sia concentrata in ben pochi attori capaci di farlo, sia passata a molti. Ma la voglia di speculare fa parte in qualche modo del mercato. Certamente molti degli speculatori che abbiamo visto all'opera in questi mesi qua non stanno facendo soldi, gradualmente andranno fuori dal mercato oppure saranno messi, diciamo, in condizione di essere meno aggressivi. Quello che le banche centrali, certamente la difficoltà loro in questo momento è di rimanere coi piedi per terra, e però cercare di guardare anche i dati macroeconomici veri, cioè quando ci sono i tassi di interesse a 2 anni che sono al 3,75 e mentre invece o al 3,50 diciamo, e mentre invece ci sono il tasso ufficiale di sconto che è a 4,25, c'è uno spread che in qualche modo in passato si è sempre chiuso. Quindi noi osservatori di mercato guardiamo i numeri, cerchiamo di essere in qualche modo meno, se vogliamo, distratti dalla cronaca day by day, cercando di guardare le cose come bisognerebbe guardare, cioè con un'ottica un pochettino più a medio termine. Dalle crisi del passato abbiamo visto che, per esempio, quando c'è stata la prima crisi dell'Asia, no? Questo era nel primo quarter del 99, poi c'è stata una bolla speculativa che è esplosa nel 2002, con i titoli tecnologici, eccetera. Ogni volta c'è stato un forte declino in qualche modo del credito interbancario negli Stati Uniti. La stessa cosa si sta verificando in questo momento qua, solo che le economie in questo momento sono molto più collegate tra di loro. Un altro dato che mi fa piacere così in qualche modo condividere: una parte importante della bilancia dei pagamenti cinese con gli Stati Uniti è rappresentato da Walmart, una sola società. Allora, che cosa succede quando a un certo punto Walmart decide di non comprare più dai piccoli tanti miriadi di produttori cinesi che producono per lei i beni che loro normalmente vendono negli Stati Uniti? Ecco, la domanda è pertinente, nel senso, succede che l'economia cinese in qualche modo ha un rallentamento, quindi il mondo è in rallentamento economico, in qualche modo in riduzione della leva finanziaria. E quindi dall'altra parte le banche centrali osserveranno la situazione e, quando è il momento giusto, riusciranno ad abbassare i tassi senza alimentare la speculazione. Attenzione, le banche centrali non abbassano i tassi per aiutare i mercati, cioè chiariamoci questa cosa: le banche centrali abbassano i tassi quando vedono una situazione economica che lo in qualche modo richiede. Per mettere insomma un atterraggio morbido in qualche maniera anche all'economia reale. Rossi, abbiamo un minuto di tempo prima di salutarci, anche se la domanda che le voglio rivolgere richiederebbe tutta l'ora successiva. Edmond de Rothschild è ovviamente una blasonata casa francese, gestisce patrimoni importanti. Mi rendo conto che poi trasferire magari il vostro orientamento in quello che potrebbe essere un orientamento di un piccolo risparmiatore è difficile, però qual è la sensazione che è maturata in questo periodo fra la vostra clientela? Insomma, come la state seguendo in una fase come questa? Ma guardi, molto semplicemente, noi in questo momento qui, sia con le nostre gestioni che con i nostri fondi, abbiamo delle posizioni azionarie che sono state ridotte in qualche modo per tempo, osserviamo la realtà e cerchiamo comunque di avere uno stile di gestione che nel lungo termine in qualche modo paga sempre, che è quello del value, noi lo chiamiamo il value, cioè anche quella parte azionaria ridotta che desideriamo avere nei portafogli è fatta selezionando delle società che pensiamo possano avere delle caratteristiche migliori rispetto a tante altre. Ecco, qui si è parlato di banche in senso generale, tutte diciamo le banche uguali, si è parlato di borse in senso generale, tutti i titoli uguali delle società. Ecco, mi permetto di dire che in questi momenti qua scende tutto, però ci sono anche delle situazioni invece molto interessanti. E quindi la parola d'ordine più che mai selezione. Grazie a Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond de Rothschild SGR, per essere stato con noi. Grazie a Gaia Romani e Valeria Coffaro, le mie collaboratrici Salva Danai, che stamattina in tutta fretta ho tirato giù dal letto un po' prima del previsto. Grazie a Filippo Aureggi per la collaborazione tecnica. Salva Danaio torna domani ritorniamo su questi argomenti. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.